Analog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Se vi capita sempre più spesso di sentire racconti di appartamenti svaligiati, sappiate che non è un'impressione. È proprio così, e lo dicono i numeri. Negli ultimi 9 anni le denunce per furti in casa sono aumentate del 114%. Facendo un rapido calcolo si può affermare, con un certo margine di approssimazione, che in Italia i ladri mettono a segno un colpo ogni 2 minuti scarsi. Una frequenza impressionante, e non si tratta di azioni improvvisate. I malviventi selezionano con cura i loro obiettivi, si appostano, osservano, prendono nota di orari e abitudini e agiscono quando sono sicuri che la loro impresa può essere portata a termine. La mia paura è di fomentare l'allarmismo, di essere dalla parte di quelli che puntano il dito negli aspetti problematici, sulle vicende criminose che attraversano il nostro paese, e lo metto nel grande calderone per fomentare il disagio, la rivolta sociale. Metteteci quello che volete, ma sta di fatto che le due paginone oggi su Repubblica, sull'incremento abbastanza impressionante di furti e rapine, soprattutto nel centro-nord del nostro paese, non può lasciarci indifferenti. Questo è un tema di cui abbiamo spesso parlato e spesso ne abbiamo trattato. Abbiamo sempre cercato di dare delle spiegazioni. Da una parte è più difficile per tutti, quindi è più difficile e quindi è facile che si alzi la soglia di coloro che per svoltare la giornata scelgano anche delle vie non proprio rettilinee. D'altra parte è indubbio ormai che nella nostra capacità di accoglienza, di comprensione dei problemi anche delle popolazioni più svantaggiate, abbiamo anche importato qualcosa che assomiglia a un'organizzazione quasi militaresca, perfetta o managerialmente organizzata, che importa anche nuove maniere per creare crimini. Sta di fatto che le rapine negli uffici postali, negli esercizi commerciali, per strada, nelle abitazioni, in banca, sono aumentate. Nella propria personale e probabilmente insignificante biografia di ognuno di noi, devo dire che ormai aumenta il livello delle persone che raccontano gli episodi che una volta erano relegati nelle cronache dei giornali. Stavo in macchina ieri e uno dei tanti amici alza il telefono e era un suo collega che raccontava di essere stato rapinato l'orologio poco prima. Voi direte: non si gira con un orologio di prezzo al polso. Benissimo, io non sono un fautore del pauperismo ostentato, ma se lo può permettere, perché non deve metterselo al polso, deve tenerlo dentro la cassetta di sicurezza? Beh, oggi con un orologio che abbia un minimo di prezzo non si può più girare, almeno nella città di Roma, almeno in alcuni quartieri della città di Roma, perché c'è una sorta di organizzazione perfetta che individua, colpisce e porta via. Quali sono le vostre testimonianze? Qual è il vostro punto di vista? Qual è la vostra percezione rispetto al problema del raddoppio di furti e rapine che questa mattina lancia con una grande enfasi il quotidiano Repubblica? È al centro-nord che il fenomeno ha visto una vera impennata. Nei primi 6 mesi dell'anno scorso a Bologna i furti sono aumentati di più del 30%, a Milano del 29%, a Torino del 26% e anche Roma e Firenze se la passano piuttosto male. E questi sono i dati ufficiali, ai quali andrebbero aggiunti i casi che sfuggono alla conta perché le vittime non denunciano, convinte che non serva a niente. Il rischio è che comincino anche a credere che sia meglio farsi giustizia da sé. 800240024, il punto di vista di chi ci ascolta, per me è molto interessante, perché ormai ho capito che questo è un campione significativo del nostro paese, quindi la percezione e le maniere che ognuno nella sua sfera professionale, della propria vita privata, ha pensato di mettere in atto sono interessanti come valutazione. Marco Dugato, buongiorno. Buongiorno. Marco Dugato è un ricercatore presso Transcrimine, che è un istituto di criminologia dell'Università Cattolica di Milano e di Trento. Non so se lei oggi ha visto le due pagine che trattano di questo incremento, ma è un tema che comunque voi avete ampiamente studiato e analizzato. È reale? È concreta? Ci sono delle circostanze che avete individuato in questo incremento forte di un certo tipo di criminalità? Perché vedo che poi le banche in realtà si sono salvaguardate, hanno messo in atto dei sistemi più di sicurezza e i classici luoghi dell'effrazione, della rapina, del furto sono salvaguardati. Aumentano però nell'abitazione, nei pubblici esercizi, nei negozi. Sì, diciamo che si possono distinguere, l'articolo oggi sottolinea una serie di trend che sono già in vigore da diversi anni, sono trend di diverso tipo però, ci sono i trend più di lungo periodo come può essere quello per esempio dell'aumento dei furti di abitazione, delle rapine in abitazione che sappiamo che va avanti da molti anni. Così come ci sono quei trend in calo come quello che ricordava lei delle rapine in banca o come per esempio quello in parte dei furti d'auto. Nelle abitazioni vedo un incremento del 90%, adesso riferito fra il 2009 e il 2013, un 90% è tanto di aumento dei furti. Esatto, ma ripeto è un trend di lungo periodo, nel senso che si va ancora prima, è proprio da per esempio dal 2004 o dal 2005 il trend è sempre comunque stato in ascesa. La cosa che sorprende un po' sono altri tipi di reato, come parlavamo prima delle rapine, furti con strappo, che fino in realtà al 2007-2008 avevano avuto un andamento discendente rispetto agli anni precedenti e hanno invece avuto negli ultimi proprio anni un nuovo, diciamo, un più 48% nei borseggi, nel centro nord, e sud esatto. Isole un più 20%, quindi là anche un'altra, ma al di là di tutti i luoghi comuni più detestabili, si sta spostando l'idea delle zone più a rischio oppure delle aree che geograficamente e antropologicamente hanno sempre creato, perlomeno un po' per pregiudizio, un po' anche per realtà concreta e oggettiva, diciamo un maggiore allarme, no? Invece è al centro e al nord si sta sviluppando più questa cosa. Sì, in realtà sarei un po' cauto su queste considerazioni, nel senso che qui stiamo ragionando in termini di variazione, non tanto di valori assoluti, nel senso che se poi guardiamo quali sono le concentrazioni... No, io riferivo quello che passava da questa inchiesta. Ma sono dati corretti, voglio dire, però il problema è la variazione, quindi sicuramente abbiamo un incremento maggiore in alcune regioni del centro-nord, però se poi guardiamo dove effettivamente è maggiore il tasso, quindi dove è maggiore la presenza, i valori assoluti, ancora le regioni come la Sicilia, la Campania per i furti con strappo, per le rapine rimangono sicuramente le aree, diciamo così, più a rischio, però si sta sicuramente evidenziando questo incremento su tutto il paese, che poi ovviamente quando i numeri sono più bassi la variazione sembra di più. 800240024, vorrei sentire qualche testimonianza. Fiorenza, la prima, buongiorno. Buongiorno. 11 furti in 20 anni. Sì, hanno rubato di tutto, anche dall'armadio. E l'anno scorso... Ma è molto ricca, molto appariscente, molto in vista. No, sono una persona che ama le cose belle, in casa ce l'avevo e ora non ce l'ho più praticamente. E qual è la tipologia di questi 11 furti, per capire? Allora, ultimamente hanno fatto così e sono stati i vicini di casa. Io abito Cioè ha rubato i vicini di casa, hanno rubato? Vabbè, se lo sa perché quasi sempre, sono persone che abitano vicino all'appartamento. Io ho cambiato casa più volte perché cambiare la serratura, anche di quelle costosissime, non serviva. E infatti l'ultima volta mi hanno rubato in casa entrando con la chiave e avendomi in precedenza rubato la tessera della chiave, quella tesserina che danno. E dove l'aveva tenuta lei la tessera della chiave? La tenevo in una setta di cucina. La cucina aveva una porta su dietro, i vicini avevano accesso a dietro. Vabbè, rubato io le consiglierei delle scelte immobiliari più oculate, se le cose stanno come dice lei. È una tipologia piuttosto singolare. Lei cade sempre con dei vicini che le vanno a mettere le mani nei cassetti, le prendono la tesserina per rifare la chiave, le aprono la chiave e le rubano le sue povere cosette. Emanuele. Pronto, buongiorno. Lei del mestiere. Sì, si tratta di questo, buongiorno. Sono un agente di polizia, mi occupo di volante, lavoro in volante. Ecco, dalla sua esperienza professionale quotidiana, se la sente di confermare i dati di cui stiamo parlando, cioè che è un aumento abbastanza forte, diciamo incisivo, di furti che prima sembravano riguardare soltanto alcune tipologie, alcune zone, alcuni quartieri, oggi sono molto diffusi. Purtroppo assolutamente sì, c'è un incremento che soprattutto anche in questa stagione, nei periodi di festa, durante i ponti eccetera, che è veramente importante. Faccia la sua classifica, Emanuele, dal suo punto di vista professionale proprio, come se lei in fondo porta un'esperienza concreta e reale, dove vede veramente che sta, quali sono le aree diciamo di crimine che vede crescere in maniera vorticosa? Purtroppo quello che stavo dicendo è che le aree di crimine sono trasversali, si va a colpire l'abitazione del pensionato, della casalinga, di chi vive anche da solo e si va a colpire la villa isolata, appartata attraverso tecniche un pochino più sofisticate. Quindi, ma è vero che oggi l'organizzazione è abbastanza scientifica di questo tipo di operazioni? Per quanto riguarda il costruire gli elementi, gli obiettivi più elevati, sì, assolutamente. Per quanto invece riguarda diciamo il colpo casuale che viene fatto su un'abitazione che non ha grandi difese, no, questo no, è casuale, non c'è una scienza dietro. Si va a campione, tentano, provano, entrano. Cala anche il controllo sociale, le persone sono più isolate, non c'è più quella solidarietà di condominio, di gruppo. Anche questo è vero, spesso noi abbiamo difficoltà a reperire informazioni, si hanno sentito rumori, oppure ci dicono sì, ho sentito qualche cosa ma non ho chiamato, non sappiamo chi abita a quel piano, non sappiamo chi c'è di sotto, chi c'è di sopra, se sono in casa, quando escono, succede anche questo. Ecco, in genere a quante persone voi riuscite a mettere le manette rispetto, diciamo, alle denunce che vi fanno o i crimini che vi vengono segnalati? Dunque, io opero in volante, quindi noi operiamo molto sulla flagranza, non su un'attività di indagine. Certo. E in flagranza nell'ultimo mese posso dire che con il mio gruppo operativo abbiamo portato 8 arresti, cioè 8 persone sono arrestate in 3 diverse occasioni, vari gruppi di 3, di 2, dentro gli appartamenti. Quindi li beccate proprio dentro l'appartamento? Sì, certo, o dietro inseguimenti, perché scappano con delle auto, si danno alla fuga. Ecco, mi spieghi bene, no, perché è raro aver qualcuno che te lo racconta proprio. Voi avete una segnalazione, un vicino non della categoria che lei ha detto, chiama e dice qua c'è rumore, o scattano gli allarmi, sotto casa mia scatta ogni sera un allarme, penso ormai non chiami più nessuno. Voi a questo punto andate la chiamata, e come operate? Dunque, negli ultimi casi sono stati visti arrampicarsi da una brontaia, oppure attraverso uno che fa dalla schiena, porge la schiena all'altro, vengono visti entrare dalla finestra, il vicino ci risegnala, cosa che è essenziale, questo anche per chi ci sta ascoltando. È vero che salgono fino ai piani molto alti, sono molto agili. Arrivano fino al quarto piano, però qui siamo già più soggetti, più specializzati. Oppure vedono salire dalle scale le classiche zingarelle o persone, insomma, che vengono notate per come possono essere connotate dall'abbigliamento o dal modo di fare. Sentono sfondare la porta, noi arriviamo con cautela. Quindi la porta come la sfondano? Sono attrezzati per sfondare la porta? È sufficiente una lastra di quelle per... Quindi con le vecchie serrature, non c'ha le serrature di ultimo tipo? No, e anche comunque le serrature più recenti si usa il cacciavite, la porta va giù, basta fare forza in un certo modo, dalle finestre sul retro, dalle finestre mal chiuse, dalle grate che non sono state messe con la serratura, insomma diversi metodi. Noi interveniamo con cautela, quindi ci avviciniamo senza di fare troppi rumori con le sirene. Quindi quando a volte vediamo la volante che ci chiede spazio, cerchiamo di acconsentire, accostare leggermente in modo tale da farci passare. Arriviamo, cerchiamo di chiudere le vie di fuga e li troviamo in casa. Diciamo, l'ultima volta è andata bene così e siamo riusciti ad arrestarli. Ma reagiscono, hanno reazione oppure una volta presi? Dipende dalla tipologia. Il professionista, cioè la persona che ha già numerosi arresti, alza le mani. Persone che operano invece in ambiti più specializzati, se non si tratta proprio del classico ladro, ma di chi va per esempio sui furti in villa, sì, può reagire ed è successo che l'abbia fatto. Cioè, nella disperazione, nel momento in cui viene preso, ha una reazione a volte anche istintiva, non programmata, di colpire chi lo sta per... Allora, Emanuele, abbiamo una cortesia. Diamo solo un secondo l'informazione del traffico, è troppo prezioso perché raramente capita avere testimonianze così dirette. Ma tengo ancora qualche minuto, così ci dà qualche indicazione in positivo, cioè cosa fare per prevenire magari, e ci racconta anche poi come accade, cosa succede, come operano. Melog. Cronache meridiane. Colpo da professionisti, 3 minuti e via con il bottino, 100.000 euro in oro e diamanti, in piena notte, in pieno centro di Milano, beffata la vigilanza e i carabinieri, intervenuti a tempo di record, in 6 minuti appena, la serratura blindata della showroom viene aperta in pochi secondi con una tecnica mai vista finora, il sistema d'allarme viene neutralizzato con un getto di schiuma. L'arte dell'ipnosi dilaga tra i ladri. Dopo Iesi, Perugia e Torino è successo anche a Treviso. Persino uno dei poliziotti che li ha catturati ci è cascato. I poliziotti hanno dato una dimostrazione pratica riuscendo a intascare al poliziotto 50 euro. La tecnica usata dai rapinatori è semplicissima. Ame gli occhi, dicevano più o meno così i due ladri, e le vittime consegnavano i soldi senza esitazione. Oddio, a me mi sembra un po' forzata questa cosa, che ci siano gli ipnotisti, i ladri, che ti guardano negli occhi e come faceva giù Cascasella, e dico quando lo dico io, tutto può essere. Però che sia variegato e cambiata la metodologia, che ci siano nuovi sistemi e nuove maniere e nuove tecniche, lo stiamo apprendendo questa mattina, sia il nostro ascoltatore Emanuele Emanuele, che adesso risentiremo, sia da altri ascoltatori documentatissimi che ci stanno chiamando. Però volevo io riprendere un attimo l'analisi interrotta di Marco Dugato, che ricordo che è un ricercatore presso Transcrimine, che è un istituto di criminologia dell'Università Cattolica di Milano e Trento. Secondo lei, dottor Dugato, quando sfociamo poi nella fantasia o nella fantacronaca, e quanto in realtà è cambiata un po' la tipologia di questo tipo di azioni? Allora, innanzitutto che qui bisogna sempre distinguere tra quei tipi di reati che necessitano di un livello di organizzazione più forte. Sicuramente il furto in abitazione, ricordava prima lei, il furto in banca per esempio, che sicuramente è cambiato, si è spostato per esempio molto più sul trasporto valori o sui trasporti in generale, quindi su lì sicuramente c'è un livello, e a volte sono anche delle tecniche veramente molto molto avanzate, per esempio sulle rapine sui trasporti a volte si parlano anche di utensil che permettono di disinnescare il GPS, quindi insomma ci sono veramente dei livelli, sia diciamo che la tecnologia oggi aiuta sicuramente, aiuta moltissimo, anche loro, è facilmente reperibile, oggi si trova di tutto, assolutamente sì, e quindi quello da un lato sicuramente c'è, e poi c'è tutto invece quel settore di reati che sono più in qualche maniera artigianali, se vogliamo, che sono quelli un po' più influenzati dall'aumento della crisi, quindi dagli aumenti che abbiamo registrato ultimamente, quindi le rapine in strada, i furti con strappo, che invece, come dire, necessitano sicuramente un livello sia di preparazione ma anche proprio di organizzazione del furto stesso molto, molto più basso. Riprendo un attimo con Emanuele. Emanuele, ha sentito lo stralcio, abbiamo preso da un telegiornale, questa storia dell'ipnotizzatore, lei la convince, qualcosa che ha sentito dire? Sentito dire, perché non ho alcuna esperienza diretta. Rimane ancora nell'aspetto leggero. Invece quali sono le cose concrete, veramente concrete? Quindi lei ha parlato anche di inseguimento. L'inseguimento significa che le persone allarmate dall'arrivo della polizia scappano, è proprio come nei film di Guardie Ladri, dovete riacciuffarli. Sì, esattamente, succede anche questo, dobbiamo o con la macchina quando hanno un mezzo che di solito è rubato, quindi prendono le chiavi in un altro appartamento, portano via la macchina e poi la usano per altri furti, oppure a piedi direttamente per le strade del centro o di campagna se fanno un furto su una villa appartata, quindi esattamente come si vede, sì. Quindi lei consiglierebbe comunque, se c'è un furto, poi di cambiare anche le chiavi dell'automobile, o viceversa, se c'è un furto d'auto, cambiare le chiavi di casa, perché le due chiavi aprono nuovi scenari? Non succede direttamente questo, di solito vengono portate via le chiavi e l'auto, poi l'auto viene utilizzata per fare altri furti in altre abitazioni, si spostano con la macchina rubata ovviamente, quindi sì, non serve tanto cambiare quella della propria, insomma, cambia poco. Ormai. Ecco, a parte il furto di appartamento di cui abbiamo parlato, le altre tipologie tipo il borseggio, le rapine fatte per strada, queste nuove tecniche di aggressione o di simulazione di altre situazioni che servono proprio, finalizzate proprio alla rapina, ecco, ne sente parlare, intervenite anche in questo tipo di azioni? Dunque, sul borseggio non abbiamo nuove statistiche, diciamo, più elevate rispetto al passato, perché il borseggiatore, tranne quello occasionale, è una categoria abbastanza specializzata e quindi il numero rimane quello. Per quanto riguarda invece la rapina in strada, questa sta aumentando, perché è più facile da attuare da parte della persona che vuol prelevare del denaro, degli effetti, e sia sotto forma dello scippo, che non è rapina, cioè della asportazione con strappo di un oggetto, una borsa, una catenina, un orologio, o altrimenti della vera e propria rapina, spesso anche, diciamo, molto improvvisata, fatta minacciando semplicemente con la voce, con fare minaccioso, con una bottiglia rotta o altre cose. Circolano meno armi reali, armi proprie? Nella realtà, diciamo, dove lavoro io, o comunque in determinate realtà, no, non circolano, non si può dire che circolino. Su crimini più specializzati assolutamente sì, e infatti vengono spesso rubate anche in appartamenti o in armerie. Diciamo, in strada normalmente non c'è. Ecco, per cosa vengono usate? Per le rapine vere e proprie? Le armi sì, su reati più di un livello più alto, rapine in portavalori, rapine in banca, su obiettivi più consistenti, da persone che ne sanno usare e sono specializzate. Le sono molto grato, Emanuele. Emanuele, che è un agente che ci ha raccontato la sua esperienza di strada, che è molto importante, perché raramente poi si ha in maniera così diretta e spontanea. Herman però si occupa di cose del genere. Buongiorno. Salve, buongiorno. Io chiamo dalla provincia di Udine e collaboro con un'azienda friulana, la Domo VIP Italia, sì, che si occupa di dare informazioni alle persone per quanto riguarda la sicurezza, perché il dato allarmante, che magari non viene citato, è che i furti, 7 furti su 10, e questo è un dato terribile, avvengono quando la gente è a casa, perché le bande di 3, 2, 3 persone interviene per pochi spiccioli, due portafogli, due orologi, due telefonini. Quindi non ci si illuda, a casa mia tanto non c'è niente da rubare, quello che tutti pensiamo, ma a casa esatto, mia... Esatto, non dico, è che da illudersi questo, le tecniche oggi da internet, tutto quello che si può trovare è allarmante, quando ci si affaccia e noi quando mettiamo queste cose alla realtà della gente comune che pensa di essere con una gratta sicura oppure col cane sicuro, il cane viene anestetizzato benché vada anestetizzato e questo è allarmante, bisogna che li fermiamo prima che entrino in casa, perché il dato di 7 furti su 10 avviene quando le persone sono a casa. Anche quando uno è a casa non è che attiva tutte le sicure. Massimo chiude il portone di casa da dentro, ecco, cosa che non tutti fanno. Si lascia sulla chiave perché entrano dalle finestre. Come le dico, la consulenza che noi offriamo è una consulenza che va a rendere note le tecniche e soprattutto... Mi sembra fondamentale, però devo dare la parola a Maria Teresa perché una vittima di ipnotisti ci ha chiamato. Teresa, com'è successo? Buongiorno, sì. Io niente, avevo il bambino in braccio, stavo andando a vidimare dei libri in tribunale, quindi con soldi che non erano neanche miei, mi ha fermato una zingara e mi ha guardato per un po' e mi ha chiesto 1000 lire. Io ho tirato purtroppo fuori il portafoglio per darle 1000 lire, lei evidentemente ha visto che io dentro avevo degli altri soldi e io le ho consegnato tutti i soldi che avevo, erano 131.000 lire. Quindi ancora prima dell'euro è accaduto, quindi lei è stata ipnotizzata, consapevolmente ipnotizzata, quindi anche questo accade. Grazie, a domani.